Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Buonasera a tutti e benvenuti nella programmazione serale di Blu Radio Veneto. Sono le 21:04 minuti primi di questo martedì 14 maggio del 2013. Una buona serata vi arriva da Flavio Bilato, da chi conduce insieme a me la trasmissione, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Come sempre Maurizio, ti vedo all'interno della fossa dei leoni. Dei leoni. Come sempre, attenzione perché ne rimane gran poco di Maurizio. Sì. Ecco, quindi trattatemelo bene. Allora mi rivolgo subito a chi è ospite di questa trasmissione, quindi a Nagaila. Benvenuta Nagaila. Grazie, buonasera a tutti. E diamo il benvenuto anche ai tuoi amici musicisti, ovvero a Matteo Milesi, che questa sera suonerà il cajon. Buonasera a tutti. E poi ancora Fidel Fogaroli, questa sera al piano, ma poi sapremo che altri strumenti suona. Poi diciamo che Fidel non è nuovo nelle nostre programmazioni serali. Allora, come si diceva, innanzitutto ho fatto buon viaggio da Bergamo arrivare qui. Sì, tutto bene, dai. Oggi c'era un po' di incidenti sulla 4, però noi siamo riusciti a schivare. Cose normali, assolutamente. Sì. Comunque, allora Nagaila è venuta a trovarci per presentarci il suo ultimo lavoro, si intitola Viaggio di ritorno, e scopriremo all'interno di questa programmazione, tra live e pezzi da disco, qual è la dimensione musicale di Nagaila. Innanzitutto Nagaila, vogliamo già fare un breve cappello a quello che è il CD che ci presenti. Ad esempio, il titolo del CD, Viaggio di ritorno, quando c'è stata l'andata? Allora, diciamo che Viaggio di ritorno nasce, questo titolo nasce proprio legandosi ai vari brani, perché ognuno di questi brani in qualche modo parla di un viaggio, che sia fisico, che sia mentale, che sia un'esperienza vissuta, quindi e molto spesso ricade questa parola viaggio. Quindi è nata questa bella idea del viaggio di ritorno, perché tornare è sempre un bel momento per rimettersi un pochettino a confronto con se stessi, visto che la nostra musica porta un po' in altri mondi e porta anche poi a casa. Quindi... Assolutamente altri mondi, perché c'è un continuo viaggiare, una continua ricerca di ritmi, di prestazioni musicali davvero fantastiche, si può dire, proprio nel vero senso della parola. La fantasia, esatto, è sempre sì, in primo piano. Nonostante tutto, tu dici anche, c'è anche un po' di intimismo, anche soprattutto presente nei tuoi testi. Sì, sì, moltissimo, perché mi piace moltissimo la poesia, e soprattutto la poesia che non dice cose, ma che lascia dei misteri. Quindi spesso nei miei testi ci sono realtà nascoste dell'interiore. Quindi se ti chiederemo qualcosa legata ai testi, tu dici ascoltalo bene e dai tu una tua interpretazione. La risposta è assolutamente. Ok, allora cominciamo col primo boh della serie, il primo pezzo che... ma avete perso davvero l'accento, sì? Padovano, basta, vi siete trasformati. Ah, è vero? Sì. Sì. Vabbè, no, perché abbiamo detto a Nagaila prima fuori dalla diretta, Padovani, fino alla 21 ti concediamo il fascino del dialetto veneto, dopodiché noi, ecco. Bene, allora Nagaila, che dici? Cominciamo con l'ascolto del primo pezzo, così per far capire anche agli amici che ci ascoltano da casa, sia via radio sia via internet, di che musica stiamo parlando. E quindi cominciamo subito con un brano piccolo piccolo, così piccolo che proprio l'ha intitolato Microbo. Esatto. Eccolo qua. Osserverò Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Quindi niente paura, se c'è un buco nel pavimento non è un agente 007 che osserva, è il microbo in questo non caso. Non si può mai dire non un microbo dire. Cosa possa essere. È vero, perché essere, ci potrebbe essere anche una microspia. Ragazzi, ma noi siamo microbi un po', eh? Sì. Ah, vedi, vedi. È un continuo, si continua a cambiare faccia in questa canzone, perché il microbo non si sa se è lui o se sono io quindi, che lo sto quindi guardando. Quindi una interpretazione kafkiana della della canzone. Infatti volevo dire, tiriamoci fuori questo Kafka. Questo Kafkian. Sì, sì, sì. E come mai allora c'è una passione legata a Kafka che ti ha portato? No. Guarda, io leggo tanti libri, questo è vero, ma sono molto stupida. Però credo che mi restino addosso un po' di delle cose che leggo e delle immagini che catturo nei libri. Però mi restano in maniera istintiva, senza grande cervello. E quindi, quindi il microbo può essere venuto anche da quello, perché effettivamente ho riletto La Metamorfosi un po' di tempo fa. Quindi sì, assolutamente, è un tipo un libretto Harmony, diciamo. Sì, sì, sì. Molto, molto, molto, molto facile e descrittivo. Sì. Tu hai detto una cosa giusta, l'istinto, hai citato l'istinto. In un'intervista, ne hai fatti interessanti, e hai coniugato il discorso tuo del progetto di questo disco nuovo con l'istinto. Tu sei una cantante istintiva. Questo pezzo, Microbo, dà proprio la chiave di volta assoluta dell'istinto. Non c'è niente di fabbricato, di costruito. È spontaneo, non è così? Sì, sì, assolutamente. È proprio così. E noi navighiamo in questa cosa, almeno io sono molto per questo. Ho lavorato tantissimo sulla mia voce, ho studiato tanto, però quando scrivo musica e quando canto davanti al pubblico la tecnica non mi interessa proprio per niente, quindi sono assolutamente sbavata e assolutamente sempre fuori canone, perché comunque quello che conta è quello che c'è da comunicare, insomma. Ecco, quello che c'è da comunicare, perché sul palco si comunica. Ah beh. Assolutamente, con la voce, con gli strumenti, col gesticolare, si comunica con tutto. E questa è la base. E questa è anche una canzone e tutte le altre canzoni che si prestano molto al gesticolio mentre si canta. Allora sì, tu sì, la sì, vivi proprio di immagini e cerchi di spiegare alla gente che ti ascolta come è fatto il microbo, ad esempio, piuttosto. Ma in realtà quando sono davanti alle persone a cantare non è che cerco di spiegare, è proprio la musica è qualcosa di straordinario, perché riesce a creare comunicazioni anche senza le parole, in realtà, perché è un'energia che passa attraverso il corpo, quindi una grande, perché le voci sono amate da così tante persone, perché fondamentalmente sono energia che arriva dritta in fronte, quindi questa energia corporea, io credo tantissimo che ci sia questa energia, e se messa in musica è qualcosa di ancora più bello, perché è molto forte. E quando canto facciamo questa cosa qua. Anche i miei musicisti, guarda come sono energici. Adesso non li potete vedere, ma sono qua. Che, beh, cioè, poi, a proposito di vedere. Non si tengono, ragazzi. Sì. Ricordiamo già in principio di trasmissione che questa bella diretta roar, ecco. Oppure come direbbero Rolling Stones nel loro ultimo prodotto, grrr. Sì, esatto, così, proprio ecco, così. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori sin dal principio che questa trasmissione rigorosamente in diretta sarà poi anche registrata e sarà all'interno dei nostri archivi sonori, per cui se volete risentirla liberi di farlo all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, nella pagina riservata alla notizia legata a Anna Gaila, la sua presenza di questa sera. C'è anche la possibilità poi di andarsi ad ascoltare ancora la registrata e poi anche vedersi le foto della trasmissione, per cui potrete vedere i leoni ecco che qua. Ci sono in questo pezzo nel finale, a proposito di sperimentazione, parliamo con lui, con Fidel. Dai, cosa sì, dici di parlare. C'è un po' di noise alla fine, come mai sì. Ci ha messo un po' di noise, molto interessante il noise, quella voce che di Nagaila che sperimenta, che gioca, che va al di là di un filo conduttore. Sì, cioè la nostra musica comunque e i miei suoni sono molto rumorosi, cioè sia nel senso tecnico, perché l'amplificatore fa rumore, sia perché comunque mi piace anche quell'aspetto lì, quindi i feedback. Feedback è soprattutto quello, rompere un certo modo di fare le cose. Mi piace comunque prendere tutto del suono, cioè la parte diciamo più pulita, più cristallina, però anche la parte più grezza, più sporca. Siamo un po' punk noi. Esatto, sì. Siete proprio punk. Sembriamo dei ragazzi eleganti, ma in siamo realtà, punk. Sì. Mi aspetto che spacchino le sedie tra un momento e l'altro. Allora, abbiamo parlato prima di leoni, vogliamo continuare parlando di altri animali. Ad esempio... Siamo pieni di animali in questo progetto. Bene, dopo i microbi, che sono animali definiti piccoli, ci sono degli animali più grandi, quindi i cavalli bellissimi. E le sirene. Esatto. Allora, visto che siete muniti, oltre che la tua splendida voce, Nagaila, anche di piano, un piano davvero buffo. È un micropiano, ecco, con dei tasti piccolissimi, molto difficili da suonare. Molto difficile da suonare. È suonato da Fidel Fogaroli in questa serata e poi ancora con il cajon di Matteo Milesi. Ci ascoltiamo proprio in diretta qui in versione acustica quello che poi potrete ascoltare, carissimi ascoltatori, entrando in possesso del disco, lo ricorderemo anche più tardi come fare, I cavalli e le sirene, qui a Blu Radio Veneto, Nagaila. Sentirmi amata dentro un mio Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato questo splendido pezzo nella versione acustica che ci ha voluto regalare Nagaila in questa serata, I cavalli e le sirene, si intitola così questo pezzo, e si può trovare anche all'interno di questo CD intitolato Viaggio di ritorno. Allora Nagaila, una specie di viaggio nell'universo dove tutti gli animali si muovono, comunicano, è tutto in un unico scopo, quello della vita in questo pezzo. Ah, che bello, sì, sono d'accordissimo. Questo brano è proprio un po' una favola, è proprio un po'... Io lavoro in biblioteca con i bambini, quindi ho molto a che fare con le favole. E queste proprio sono queste immagini di animali fantastici, perché i cavalli sono animali veramente straordinari, e poi di queste sirene che esistono e che cantano sotto il mare. Quindi è nato così questo brano, con queste piccole visioni. Quindi che... salutiamo tutte le mermaid in ascolto. Esatto. E salutiamo Ariel in particolare. Bene. E Nemo sempre. E anche Nemo, sì, il pesciolino, cioè, ci mancherebbe. E allora, abbiamo ascoltato questo pezzo e, come abbiamo ricordato già in principio, Fidel Fogaroli ci ha fatto compagnia con un piano molto piccolo in versione Amici di Linus, quelli che si vedono con Snoopy. Quindi, cioè, è inginocchiato Schroeder. Come Schroeder. E dà una grande melodia al pezzo. E appunto, cavalli e sirene. Ricordiamo già come fare per entrare in possesso del tuo CD, Nagaila. Ah, so che c'è un sito internet, sì, in primis. Sì, c'è un sito internet, www.nagaila.net. Poi si trova comunque online, oltre al nostro sito si trova anche in altri posti, basta solo cercare un po' Nagaila Viaggio di Ritorno, sì. Abbiamo dei rivenditori matti. Su Bandcamp, sì. Allora passo la palla al mio batterista, sì, che sa tutto su questo tipo di promozione. Cediamo allora a Matteo Milesi, il capo, esatto, della situazione, percussionista, e però... Di solito c'è la batteria, no? Sì, di solito sì. Ti manca un po'. Sì, è un po' un altro gioco, sì, ecco, sì. Diciamo così. Sì, sì. Dimmi Matteo, continuiamo con come fare per entrare in possesso del disco, era la domanda originale. Allora, Nagaila.net, poi Bandcamp, Nagaila.com. Chi? Nagaila.chi? Chi è? Chi è? E poi su altri portali che adesso non mi ricordo. Poi si può rubare anche. Poi, sì, concerti, si può chiedere in prestito ai concerti, soprattutto quelli Esatto. Si può rubare i concerti e basta andare dietro al baracchino mentre si vende per finta di niente. Benissimo. Allora si chiederanno gli ascoltatori: Nagaila è un nome d'arte? In realtà no. È il tuo nome. È il mio nome, sì. Vogliamo scoprire come mai i tuoi genitori quella volta, Nagaila. Ma in realtà è stata mia zia. Allora, a detta di mia madre, mia zia aveva letto un libro con questa protagonista che si chiamava Nagaila, e quindi il nome è nato da questo. Poi lei mi ha anche detto che significa montagna della felicità, ma secondo me mia mamma era un po' matta, perché io poi ho cercato questo significato, ma non trovo niente. Trovo solo che deriva dal sanscrito, che è una lingua indiana, e naga vuol dire serpente velenoso, quindi attenzione. To nag vuol dire in inglese rompere le scatole, quindi sono divisa in questi significati. Perfetto. Tu hai parlato dell'India, e secondo me in questo pezzo c'è qualcosa di Oriente. Faccio questa ipotesi, caro Flavio. Sì, dimmi. John Cage, che si incrocia con Satie, sì, e rimescolato con i Soft Machine. Ci ha messo un po' di tutto, secondo me, in questo pezzo. E sì, c'è anche l'India. Quindi l'India viene fuori nel tuo vocalista, nel tuo cantare, che non è un cantare, è un andare oltre il canto, secondo me. Sì, sì, sicuramente. E queste tre componenti io le ho sentite in questo momento, in questo pezzo. Sì, sì, sì. Soft Machine sì, secondo me, perché secondo me tu ami Soft Machine, quelli più estremi, non quelli semplici, quelli più estremi, quelli che rivoluzionano il jazz vero e proprio. E vabbè, sono esempi che sicuramente ascolto, cioè nel senso è musica che ascolto, cioè soprattutto vabbè, il parlato di Satie. Di Satie sì, si cioè sente. Nel senso del piano, cioè il senso, il modulare del piano. Cioè comunque diciamo quel periodo storico, cioè Satie, gli altri compositori francesi tipo Debussy, sì, Ravel, esattamente, impressionisti, mi piacciono molto. Quindi e questo è un forma di impressionismo, cioè il modo di cantare della stessa, della vocalist qui presente, che si sbraccia, è bella perché si vede, si muove in continuazione, dai, ad ogni movimento tuo dà un movimento sonoro. Un andamento sono, secondo me. Infatti, che bello, perché sì, non vieni sì, sempre con noi che racconti così bene questa. È vero, e tutte queste cose così, dette così bene. Noi invece diciamo sì, sì, ciao. Sì, alcune cose le stiamo scoprendo mentre le stai dicendo. Tutte però giuste. Sì, assolutamente sì. Maurizio è un grande osservatore, un vero peccato farlo lavorare sulle radio. Sì, sì. No, meglio di no. Ma dà l'idea veramente di quello che sta succedendo in questa serata, perché è un vero peccato, però la radio diciamo fa la sua parte nel far ascoltare la musica e comunque l'emozione proposta anche in questa serata entra e si sente. Allora continuiamo con l'ascolto, questa volta dando il turno al un altro CD, animale, sì, un altro animale che si chiama CD player, ecco, no, il titolo del perché nel sì, posto segreto delle formiche e non solo. Ah, bene. Quindi c'è quindi tutto un mondo intorno. Allora c'è tutto un mondo intorno, come diceva Mattia Bazzaro. Esatto, sì, proprio esatto, lei. In quel periodo. Allora, ci ascoltiamo questo nel posto segreto. Delle formiche, delle non formiche, solo. Bene. Thank you. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato nel posto segreto lei, Nagaila, il suo ultimo lavoro si intitola Viaggio di ritorno e noi di Blu Radio Veneto siamo fortunati perché Nagaila è venuta a trovarci qui in carne ed ossa assieme ai suoi amici musicisti. Siamo fortunati, hai detto un'altra parola molto importante in questo disco, la fortuna. È la fortuna. E quindi sì, le formiche a cosa devono la fortuna di questo posto segreto? ma perché c'è tutto un mondo, c'è tutto un significato nascosto. Perché in questo mondo in cui tutti siamo pieni di problemi, ci sono un sacco di cose che non vanno bene, io credo di essere molto fortunata. Quindi... È molto verdoniana la tua. No, perché in questo disco si parla di misura, di ritrovare la misura dei propri passi, di ritrovare la fortuna dell'essere quello che siamo, nel confronto con la natura e anche con le formiche, perché io ieri sono stata invasa dalle formiche e non mi capitava da tempo. Anche a me. Mi hanno invaso tutto, zucchero, tutto quello che c'era di... È successo anche a me ieri sera, stessa cosa. È stato È proprio il periodo forse, il tempo. Direi che è una cosa normale, sì, esattamente. Assolutamente. E comunque salutiamo tutte le formiche in ascolto, esatto, che ci saranno fermate per diciamo la loro pausa serale. No, loro sono sempre, cioè, sono sempre attive. Allora sì, finché la cigala al massimo, però le formiche lavorano come noi. Lavorano, quindi salutiamo per non fare per fare par condicio un po' le formiche nere, le formiche rosse e anche tutti gli amici formichieri che ci salvano da loro stessi. Benissimo, allora continuiamo a parlare del disco. Un disco veramente bello, noi l'abbiamo ascoltato fino in fondo e lo stiamo proponendo ai nostri ascoltatori e abbiamo visto anche una copertina molto ben curata. Nel senso che ci sono, a parte i testi messi uno davanti e uno dietro, poi la copertina che devi girarla per leggerla, per sì, continuare. Sì, è un po' complessa. Ma nello stesso siamo tempo... un complesso, quindi siamo complessi. E sì, questa copertina, tra l'altro ringrazio il nostro grafico che si chiama Marco Riva ed è veramente molto bravo e lavora molto bene. E è un po' questo uccello albero che vola, quindi un po' sta a terra, un po' sta in cielo, questo stare sempre fra mondi diversi e poi vabbè c'è sempre il collegamento anche al disco precedente che si chiama Luce negli occhi, in cui c'era un piccolo abete che stava nascendo e qui c'è un albero che vola, quindi nel prossimo non so cosa faremo. Bene, quindi sempre copertine assolutamente avveniristiche, molto che vanno più in là di quello che è una normale visione della copertina. Poi c'è anche una scarpa, se non sbaglio. Sì, c'è una scarpa che dura da tempo e che è un po' una parte di me. Sono una che è stata sulle scarpe perché avevo i piedi piatti, quindi fin da piccola mia mamma mi metteva sui piccoli tacchi. E allora io sono vissuta su questi tacchi e mi sono sempre trovata in questo equilibrio instabile dello stare sul tacco. Però fa parte di me questa scarpa col tacco. Benissimo, allora visto che ci siamo, parliamo anche di quelli che sono gli altri lavori discografici, Nagaila. Yes. Allora, tu hai cominciato molto, molto giovane a parlare di musica, a far ascoltare la tua musica. Sì, diciamo che nel 95-96 è nato il primo disco che si chiama Silenzi miei. E è nato da una collaborazione importantissima per me con il mio maestro di musica e di canto che si chiama Maurizio Zappatini, un grandissimo musicista che lavora a Bergamo, e con lui è nato questo progetto di questo disco, 14 brani, c'era una bella cover di Alberto Fortis, un grande cantautore. Che cosa di Alberto Fortis? La sedia di Lillà. Volevo immaginare che era... La puoi fare un secondo? Ostrega, no, perché lì era una versione un po' di... Ma solo a cappella, te la ricordi? Allora, sai che non so se... Stavo immobile nel letto. È proprio quella, sì. Ostarga, sì, vero? È proprio quella. Con le gambe inesistenti e una piaga sulla bocca. che segnava il suo sorriso, però non me la, è tanto che non la canto più. È proprio quella. Sì. Pezzo bellissimo. Vabbè, Alberto Fortis in quel periodo era veramente molto molto bello quello che faceva. E quindi Maurizio Zappatini, poi c'era la produzione artistica di Francesco Renga. E è stato un bel lavoro per me, giovanissima, a lavorare con questi grandi musicisti. E siamo usciti con la Ricordi, quindi ha avuto anche una buona promozione, buona promozione, vabbè, comunque è stato diffuso il disco. Poi dal 96 saltiamo fino al 2007, in cui nasce Luce negli occhi, che invece è un disco autoprodotto e che nasce da una collaborazione con Fidel Fogaroli, che è un musicista con cui collaboro dal 2000. Dal 2000? Che sbaglio il leone qua. No, 98. Cioè, sì, dal 98. Dal 98, corregge, esatto. Fogaroli, perché è qui con noi. Ecco, sì. È qui, sta dormendo, ma è qui, svegliati. No, sul palco sono delle bestie, però poi bisogna un po' temperarli quando sono... L'effetto radio. La leader di una band è così, deve temperare i suoi musicisti. Deve... Sì. No, a quello livello là, ma insomma... Ok, quindi 2007 Luce negli occhi, un disco per me importantissimo, un disco di grande ricerca che abbiamo lavorato moltissimo per ottenerlo. E poi abbiamo fatto un DVD live, quindi l'anno dopo, nel 2008, abbiamo fatto un bellissimo pacchetto di CD e DVD con tre concerti che abbiamo fatto appunto per il disco Luce negli occhi, e poi finalmente 2012 Viaggio di ritorno. Un disco veramente, cioè da band, cioè da una cantautrice così curva sul piano, ci siamo trasformati in una band vera, un po' prog, un po' pazza. C'è un po' di incenso in questa presentazione. C'è un po' di tutto, ragazzi, parlate voi perché io non so più che dire. No, vabbè, allora abbiamo... Va ben? Parlo un po' padovano. Va ben? Come vuoi, poi ti facciamo un corso veloce, diciamo. Ecco, allora abbiamo quindi capito quelli che sono i lavori discografici di Nagaila, quindi partendo da Silenzi miei per arrivare a Luce negli occhi, e per poi regalare quel progetto formato da CD e DVD che si chiama Nagaila Live 2008. Poi a distanza di 4 anni è nato questo viaggio di ritorno che stiamo ascoltando. Allora, direi di concederci un'altra pausa nell'ascolto del disco, dando cosa tocca adesso? Ah, c'è un pezzo live. Sì. Allora, questo pezzo live si intitola Mal d'Africa. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Buonasera direttore. Grande, grande energia in questo pezzo che abbiamo ascoltato adesso, mentre abbiamo sentito il saluto buonasera direttore riservata ad Alberto, tramite il quale la Gaila è qui con noi questa sera. Il nostro direttore artistico seguirà poi la sua trasmissione dalle 22:30 circa fino alle 24, so sempre che ci regala sempre quei 5 minuti ecco, per il suo Rock Wave nella versione anche della classifica. E allora Nagaila, questo mal d'Africa, chiedono sempre tutti che cos'è il mal d'Africa. Allora naturalmente uno dice vai in Africa e poi me lo dici quando ritorni. Sì, questo brano diciamo che sono veramente molto felice che sia nato, perché è proprio un piccolo gioiello, io lo amo tantissimo, riesce a darmi sempre grandissime emozioni e diciamo che è nato in questo modo, nel senso che noi abbiamo un amico che si chiama Babacar, che è senegalese e è stato qua per tantissimi anni a lavorare. Un ragazzo veramente nel cui sorriso si vede proprio l'Africa, quindi è una bellissima persona. E lui voleva tornare in Africa, io poi ho parlato un po' con lui e voleva tornare in Africa, però non poteva, perché loro hanno delle famiglie molto importanti, hanno dei gruppi familiari importantissimi e il rispetto tra di loro è proprio legato a cosa riuscivano a fare, cosa riescono a fare nei paesi stranieri in cui vanno, per poi portarlo a casa, per poi far vedere che hanno trovato un lavoro, che si sono fatti una vita, insomma. Sì. Lui invece tornava senza aver fatto grandi cose, quindi non ce la faceva, non riusciva a subire questa cosa del... Amava, voleva tornare tantissimo perché soffriva questo mal d'Africa, però non gli era possibile farlo per questa cosa di rispetto e di sensazione di... un po' di non sentirsi all'altezza. E quindi io ho vissuto un po' questa sua storia in questa canzone, diciamo. Noi musicalmente l'abbiamo vissuto così, adesso ti spiego come. Secondo me questo è fondamentalmente un pezzo pop. Sono d'accordo. Ma aspetta, non ho finito. No, ma mi piace già l'inizio. Non ho finito. Perché è un pezzo pop che viene tirato all'inverosimile. Dal pop si sviluppa un sacco di cose, un sacco di vie musicali. Poi diventa anche etno per passare anche dal world music. E poi ritorna al pop però tutto. Alla fine. Sì, sono d'accordo. L'etno è Matteo però, L'etno è Matteo. Sì, sì. Il world è... Il world è Fidel. Io sono il pop. Tu sei il pop. Beh. Allora, il pop vuol dire popular, però è bello, dai. Cioè, in molti, quelli che ti hanno ascoltato, magari, sai che si fanno sempre i paragoni, dicono sì, è la Bjork italiana, piuttosto che la Kate Bush, piuttosto che... Tori Amos, qualcuno, insomma, ci sono stati molti nomi. Qualcuno ha detto anche Pupo? No. Al massimo io ho sentito. Avrebbero detto Pupa. Ecco. E invece sappiamo che le tue fonti di ispirazione non sono solo queste. Sono ben altre. No. Sono ben altre. Allora, quali le sono? Le lasagne, per esempio. Ecco, bene. No, mangiare bene fa bene alla voce. Assolutamente sì. Ecco. Sì. Le tre musiciste di cui hai parlato sono sicuramente tre musiciste che amo molto, in modo diverso. Kate Bush è stata forse una delle prime. Pensate, quando scrivevo le prime canzoni, per pulirmi le orecchie, perché la radio mi dava sempre delle cose che non mi piacevano, allora prima di scrivere una canzone dovevo sempre ascoltare un disco di Kate Bush, perché mi puliva le orecchie da funzione un sacco... Funzione cotton fioc, sì? Esatto, da un sacco di cose che non mi interessavano e mi creava questa libertà proprio di armonia. Mi sentivo proprio piatta, schermo piatto quando l'ascoltavo e mi ha aiutato molto Kate Bush. Bjork è straordinaria, però ci sono altri musicisti che noi ascoltiamo molto, quindi passo la palla ai miei leoni che sono qua, così. Matteo Milesi, sentiamo i tuoi ispiratori, non dire Pupo. No, allora abbiamo gli ispiratori comuni. Gli respiratori comuni, non è una malattia, che sono sicuramente Peter Gabriel, un inchino e preghiera. Preghierina. Allora, diciamo che essendo nati tutti nella metà degli anni 70, parla per te. Abbiamo come modelli i grandi della metà degli anni 80, più o meno, ecco, della fine degli anni 80, quindi Peter Gabriel, David Bowie, arriviamo anche agli U2 e poi tantissima altra musica. Diciamo che questi nomi sono quelli che hanno già incrociato nel loro lavoro tante musiche diverse, quindi hanno già fatto un discorso musicale complesso che ci piacerebbe aver fatto. Anche i Radiohead metterei, noi siamo dei grandi estimatori. Moderni, soprattutto dei Radiohead più sperimentali siete estimatori, secondo me. Thom Yorke ha fatto due dischi da solista molto complessi, molto fuori del solito trend, è una brutta parola, del solito sound dei Radiohead. Però Thom Yorke può fare anche questo. Non ha detto che non ha distrutto i Radiohead, continueranno, però lui ha avuto così voleva darsi una vacanza. Sono dei grandissimi musicisti, cioè veramente, noi quando li abbiamo visti dal vivo, mamma mia, sono musicisti, ecco la M maiuscola, è quello importante, perché ci sono dei grandi che non sono musicisti, loro sono musicisti, sono assieme agli U2, veramente sono musicisti, gli U2 un po' meno adesso, per motivi diversi, loro rimangono sempre fedeli alla linea, una volta si diceva CSI, fedeli alla linea. Benissimo, allora... E CCP, più prima i CSI, CCP. Sì, bene, allora ancora... Non è nemmeno un show di lingua, CCP. Vuoi dire tutto no, l'alfabeto? Ok, le 21.55, ricordiamo che siamo sempre all'interno di Blue Time Live, programmazione serale di Blue Radio Veneto, ai microfoni ancora Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, insieme a noi c'è Nagaila che è venuta a presentarci questo suo lavoro che si intitola Viaggio di Ritorno, dal quale prendiamo un altro estratto. Questa volta è il turno di Universo. We'll be right back. Blu Radio Veneto. Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Si intitola Universo, la canzone che abbiamo appena ascoltata, a proporcela è Nagaila, il suo ultimo lavoro si intitola Viaggio di Ritorno. E allora Nagaila, questo è l'universo che ospita tutti gli animali di cui prima e, e quindi è una canzone sì che racchiude... Ma è una canzone che nasce da un'ispirazione... da un film, so che c'è anche un libro, però in realtà io in quel momento lì avevo visto il film, si chiama Il pianeta delle scimmie, era degli anni 70, mannaggia me, non mi ricordo il regista, vado via subito. Kubrick, qualcuno mi suggerisce? No. Kubrick era l'Odissea nello spazio. Allora adesso accettiamo subito. Un altro fantastico, comunque è stato veramente un film che mi ha flashato. Sì, una saga. E con questa idea di tutti i mondi intorno e di questa relatività dell'umano e quindi in questa mescolanza nella mia testa baccata è nato l'universo, quindi una piccola... Ti ha flashato anche per la difficoltà di interpretare un pezzo simile. Vero? Come è nato questa difficoltà? Pezzo molto complesso, molto difficile. È strano, sì, perché la strofa è nata quasi in maniera un po' su un'armonia un po' jazzistica, che non amo molto, però è nata così. E poi c'è questo ritornello molto invece molto aperto, molto facile. E effettivamente anche cantarlo non è sempre così facile, perché è proprio un po' strano, sì. Allora, Il pianeta delle scimmie, film del 1968, grazie a Wikipedia, che ci viene sempre incontro in questo caso, con il regista che si chiama Franklin Schaffner. Schaffner, esatto, è ecco vero, qua. È lui. C'era anche Charles Heston, per caso, nel pianeta delle scimmie. Sì, c'era anche lui, sì. Adesso mi chiede troppo. Però davvero, se avete modo, rivedetelo, perché... poi vabbè, questi film degli anni 70 hanno dei tempi molto lenti, si sta proprio bene, te li godi proprio con grande piacere. Questo pezzo però secondo me ricorda un altro pezzo tratto da un film, lo stesso. Ti ricordi quel film fatto circa 10 anni fa? Non c'erano attori, erano solo filmati ed era fatto da un musicista americano, da colonna sonora. Come si intitola? Pronuncio male, Cogliani Scazzi, una cosa simile. È di Philip Glass. Ecco, quello ricorda molto Philip Glass, secondo me. Devo andarlo a vedere. No, ricorda anche il modo di cantare, la velocità del pezzo, ricorda molto, non so se Flavio è d'accordo, Philip Glass. Sì, non lo conosco, però sono d'accordo. E io devo scrivere tutto, perché mi è venuto in mente stasera, mi avete ispirato proprio. L'unico difetto è che non ha le pagine da sfogliare, per il resto va benissimo. Consigliato. Ho capito adesso. Bene. Allora, è un ebook, perché è un ebook. Sì. Un ebook che è parente dell'Ugnu, che si trova in Africa con le giraffe e gli elefanti. E le formiche. Benissimo, e le formiche. Abbiamo ascoltato questo pezzo che si intitola Universo, abbiamo ascoltato altri pezzi sempre con la bravissima Nagaila. Ora c'è qualcosa che vorremmo ascoltare in versione acustica. Allora cosa ci fate ascoltare? Un pezzo che sicuramente ricorda molte cose a chi ha una certa età. Certo, ma anche a chi ha voluto regalarsi delle splendide atmosfere. Sì, sono d'accordo. Allora, sì? Sono d'accordo su tutto, convinta. E il pezzo si chiama My Favorite Things, è uno standard. E noi abbiamo fatto una versione un po' particolare, abbiamo messo un momento un testo italiano, un momento il testo originale, e ascoltate. Eccolo qua, allora dagli studi di Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live, Nagaila con i suoi amici musicisti Fidel Fogaroli e Matteo Milesi con questa Le cose preziose. Ecco qua. Thank you. and whiskered old kitten, brown kabakatas and warm woolen mittens, brown papa packages type up with string. These are a few of my favorite things. Green color ponies and crisp apple strudel, Dobell and Sleigh-Bell as Nitsuwin noodle, why geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girl in white dresses with blue satin sashes, snow flash that stay on my nose and eyelashes, silver white winter that smell into spring. abbiamo ascoltato questa My Favorite Things, poi è diventata Le cose preziose. Nagai la voce, poi ancora Fidel Fogaroli al piano, Matteo Milesi al cajon e alle percussioni. Questo brano, che è lontano nel tempo, volendo dare una prima come dire connotazione, diciamo, è il 1959, quando c'è stato Roger con Hammerstein che hanno scritto questo pezzo, un pezzo che è destinato a far breccia nell'ambiente dei film. In sì, questo certo, caso, tutti quando insieme l'hai appassionatamente. Sì, ero piccolissima, lo fanno vedere tutti gli anni, spero che lo facciano vedere ancora, sì. Adesso non ho la tele, però... E sì, questo film meraviglioso, musical, con questi miliardi di brani bellissimi. E c'era questo brano, sicuramente mi era rimasto addosso. Poi comunque Fidel l'ha suonato molto anche lui, perché è anche uno standard jazz che viene suonato molto. Però c'è stato del personale, non c'è stata un'interpretazione da cover, allora, è stata proprio una cosa che va fuori dallo schema. Noi della non canzone. Riusciamo a fare interpretazioni da cover, nel senso che se i brani non diventano un po' nostri, sì. Abbiamo tantissimi brani che amiamo molto e che a me piacerebbe fare, però se non riusciamo a farli nostri, non possiamo, perché comunque è sempre un omaggio, naturalmente, a chi scrive. Quello che facciamo è sempre un omaggio. Anche nel prossimo disco ci sarà un brano di Gaber, che è L'Elastico, e naturalmente è fatto con grande amore verso chi il grande maestro che l'ha scritto, però deve un pochettino entrare anche nelle nostre corde, altrimenti non riusciremmo proprio a suonarlo. In questo pezzo, Flavio sarà d'accordo anche lui, arrivavi in un momento che ricordavi, secondo me, la voce di Donatella del Monaco. Donatella del Monaco aveva un gruppo prog, era proprio di Moriano, di Treviso, e in certe cose ricordavi molto lei. Andrò, secondo me, quindi il prog esiste, è venuto fuori anche in questo pezzo, secondo il nostro giudizio. Io e Flavio amiamo molto il prog, quindi sicuramente lui sarà d'accordo con me in questa visione di qualche secondo. Poi le cose sono cambiate, poi sei ritornata allo standard, tra virgolette, che è stato coverizzato da un sacco di gente. Certo, per sì. Coverizzato nel senso positivo, certo, non negativo. Certo, sì. Bene, allora mi ha veramente preso questo pezzo, stavo cercando ancora altre informazioni su internet. L'altra cosa è Donella del Monaco, adesso ho letto. Ah no, Donatella. Donella, sì, Donella del Monaco, è la nipote del famoso tenore. Sì, del certo, famoso... Ah, è vero. Esattamente, lei aveva un gruppo prog. Ma pensa. Assolutamente. Prog rock sperimentale, registrava con la Opus Avantra. Esatto, ecco. Gli Opus Avantra, che era un gruppo straordinario. Secondo me, e qualche momento ricordavi, secondo me, quando quasi recitavi, ti fermai e recitavi in questo pezzo, ricordavi lei. Grazie. Prego. Io sono d'accordissimo con Maurizio, lo trovo fantastico, sì, guarda. Bene, bene. Portatevelo a casa. Sì, io me lo porto a mangiare dopo. Sì. Allora, noi proseguiamo con l'ascolto, perché sono passati ben... Mamma mia. Ora. Hai visto che ore sono? Sono le 22:14, facciamo in tempo ad ascoltare un altro pezzo del vostro CD, questa volta è la traccia numero 3, che parte in questo momento e si intitola Notte Blu. Che fai? Oh. partire, ma poi ritornerai. E l'amore si muove in punta ai miei piedi. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. In una parola, notte blu Radio Veneto, direi così, no? Allora, Notte blu, dal CD di Nagaila abbiamo sentito la sua splendida risata, Viaggio di ritorno. Allora, Nagaila, questa notte blu definisce anche un po' quello che è la vostra connotazione musicale, perché in molti hanno cercato di dare un'etichetta, che noi abbiamo cercato di levare in questa trasmissione, nel senso che ecco, c'è un po' di jazz, un po' di etno, c'è la world music. Sì, non abbiamo detto effettivamente, sì, un'altra cosa che mi comunque a cui sono molto legata, e sono alcuni cantautori italiani, nel senso che comunque i testi naturalmente sono molto ispirati alle parole che io amo tantissimo. E se posso permettermi, Luce negli occhi è dedicata, che è del 2007, è dedicata a Enzo Iannacci, il disco. Perché io, anche se magari non sembra, ho una grandissima, un grandissimo amore per questo cantautore, e la sua voce mi ha sempre colpito nel profondo, perché aveva una forza e una crudezza che mi toccava proprio nel profondo. È per questo che quel disco era nato proprio con la sua dedica, insomma. È molto bello. Ci tenevo a ricordare questa cosa. Enzo Iannacci ci manca sempre tanto. Però abbiamo comunque la sua voce, che ci resterà per sempre. Questa è una grande fortuna. Assolutamente sì, la sua voce, la sua ironia, la sua maniera di vivere, la sua gran pazzia, Milano, totale. No? La sua pazzia. Ecco qua. Era prog, molto prog. Era molto prog, anche se non ne parlavano ancora della sua. E io sua... gli ho toccato il ginocchio, con questo vado qua. Fantastico, si fanno sempre cose. Bene, non l'ho più lavato. Posso dire, si vede un po'. Infatti allora, è nera. No, si vede un po' il segno. Allora, diciamo che il tutto era partito per dire che durante un'altra intervista voi avete parlato della vostra musica definendola post-pop lunare. È Fidel, quindi passo la parola al leone Fidel che dice queste cose. Come mai hai coniato questo nome, Fidel? Ma perché allora dovevamo appunto dare un'etichetta per forza al genere musicale e siccome comunque l'ambito musicale è comunque pop nel senso più ampio del termine, però pop mi sembrava un po' legato alla musica leggera per come la intendiamo in Italia, e allora volevo, cioè col termine post, indicare qualcosa tipo che andasse un po' oltre, come era il post rock rispetto al rock, e lunare perché non lo so. È venuto così. Comunque ci stava bene. Ma no, ma hai visto come è caduto sul lunare? Sì, sì, sì. Veramente mi sei caduto sul cratere. Ma insomma, cioè, sì, alla fine non è così seria come la vedi, cioè doveva trovare una parola che quindi... comunque posso confermare, ci sta bene perché poi questa musica che dà atmosfera rarefatta, per cui nella luna c'è l'aria rarefatta, il senso di gravità è molto inferiore rispetto a quella della Terra. Voleva dire quelle cose lì, più o meno non sì. Riesce perché non ha le parole, però abbiamo fatto un riassunto scientifico esatto. Di quello che è il disco di Nagaila. Allora, sarai in concerto prossimamente, Nagaila? Allora, sì, prossimamente saremo in concerto. Allora, vai Fidel, dai tutte allora, le date. La prima data... disponibile è... Allora, ne abbiamo tre a luglio che mi ricordo in questo momento. Allora, il 14 luglio all'Effe, in provincia di Bergamo, in piazza. Poi il 20 luglio. Il 20 luglio a... vicino a Rovereto, esatto, a Malgavalli. Saremo in cima a un monte se venite. A Trambigeno. Fantastico, esatto. Lì è proprio un concerto proprio di quelli... epici. sì, sì, sì. E poi il 28 luglio, sempre in provincia di Bergamo, a Grumello del Monte, sempre in piazza. E... per ora sono già tanti per noi. Poi, non è che... e poi dobbiamo finire un disco. E dobbiamo finire un disco perché abbiamo vinto un festival a ottobre, e un festival tra l'altro in cui ci hanno trattato molto bene, si chiama Festival di Biella, di autori e cantautori. E ci danno 1.000 euro se riusciamo a fare un disco entro il 2013. Bene. Io sono già in ansia, ve lo dico. Però nascerà questo disco nuovo con delle canzoni che a noi piacciono. C'era il brano che si intitolava Terra da scoprire, che sì, se non sbaglio poi farà parte anche del disco nuovo, del disco sì, nuovo. Che è quello che ha vinto il festival, un brano che piace molto e a noi piace tantissimo, quindi inseriremo quello, poi ci sarà Giorgio Gaber con l'Elastico e poi altri nostri brani. Bene, e poi sappiamo che il filo conduttore, diamo una piccola anticipazione, parla di quattro elementi principali. Sì, sì, sarà sempre legato agli elementi terra, acqua, e aria e fuoco. E fuoco, sì. E lasagne, in questo, in questo mondo naturale. Sì, benissimo, quindi vi aspettiamo ancora anche per... con grande piacere. Bene, allora, visto che avete ancora la strumentazione sì. Pronta, direi di ascoltare un altro pezzo nella programmazione serale di Blu Radio Veneto. Questa volta però non parliamo di Viaggio di Ritorno, quindi dell'ultimo lavoro, ma andiamo un po' indietro nel tempo. Sì, andiamo a Luce negli occhi e il brano si chiama Sorda come una campana. Eccola qua, Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live. Thank you. vibrazioni che mi porta il vento. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. No, dico improvvisamente, mi sono accorto che stavo ascoltando la vostra canzone con le mani giunte. Non so come mai, mi sentivo proprio... Sì, me l'ha fatto notare il fotografo adesso. Oh, eccola, sì. È pericolosa questa cosa. È pericolosa, assolutamente. Da pubblicare quella, sì. Bene, no? Quindi sembrava quasi un gri... avete visto? Visto la foto. Sì, sì, l'hanno immortalato, sì, è stato immortalato. Sì. È una musica post-bop lunare, sì, religiosamente. Sì, sì. No, diciamo che è più è una preghiera questo, un urlo, un grido proprio all'universo, a quello che si voleva descrivere prima, però siamo in un disco precedente, ricordiamolo. Sì, non siamo è in Luce negli occhi del 2007, che è il primo disco diciamo autoprodotto, quindi con questo lavoro assolutamente libero da qualsiasi tipo di... struttura e di preconcetto discografico. Ricordiamolo come il disco con la scarpa rossa, esatto, di Nagaila. Noi non siamo un prodotto, primo, ma siamo musica. Siete, ecco, musica, assolutamente sì. Musica, ma che magari non piace, però è musica. No, beh, diciamo che è quella classica musica che il primo ascolto magari devi ascoltarlo due volte e poi ti resta, diciamo. Sono quelle così, no? Le musiche devono essere così. La prima volta ascolti ti mette curiosità e poi la fai propria al secondo. Diciamo ascolto. Che non è che tutta la musica è sempre così facile al primo ascolto. Se penso a quando ho ascoltato i Pink Floyd la prima volta, non ce l'ho fatta. Però adesso è l'aria, quindi diciamo che bisogna darsi anche un po' di tempo e bisogna anche viverla un po' questa musica. E penso che Dark Side of the Moon insegni qualcosa, perché è ancora in classifica, Maurizio? Yes, it is. Ok, assolutamente. Abbiamo la conferma che dopo 42 anni, mi sembra, no? quanti 40, 40 ecco, mi pare. Dopo 40 anni è ancora in attività e all'inizio... È ancora da dire. È ancora molto da dire. A tante generazioni, anche alle prossime. E quindi appunto è riservato anche al post pop lunare, appunto Dark Side of the Moon, quindi questa faccia oscura della luna che abbiamo vissuto anche in questa operazione con Nagaila, i suoi amici musicisti, ricordiamo ancora Matteo Milesi al cajon, wow. E poi ancora Fidel Fogaroli al piano. Benissimo. Identifica i due personaggi. Abbiamo capito. Bene, e poi se posso permettermi, io volevo ringraziare voi perché abbiamo fatto un po' di interviste nella nostra vita, siamo anziani, però veramente questa attenzione, questa cura per nei dettagli di quello che ascoltate fa molto piacere a chi lavora, a chi fa musica. Certo, e pensa che non ci pagano. Pensa, ed è la cosa più bella. È la cosa più bella, perché il nostro è un... È un valore, è una passione, e quindi la nostra divulgazione musicale. Scusa Alberto, però se ci pagassero, aggiunge Alberto, ma non lo faremo con la stessa passione. Farebbe peggio, sì, no? È vero, assolutamente sì, va bene così. Allora, Nagaila, Fidel, Matteo, ci ha fatto molto piacere avervi in questa serata. Il vostro viaggio di ritorno è stato assolutamente bello, quindi vi auguriamo assolutamente un buon viaggio di ritorno nella vostra amatissima Bergamo, dove so che siete molto conosciuti. Ecco, sì. Benissimo, e adesso tramite il nostro ausilio anche il Veneto ha conosciuto la voce di Nagaila. Allora, prima di salutarci, un breve cappello su quella che è la canzone che ascolteremo da CD più tra qualche minuto. Palla di vetro. Palla di vetro, sì, palla di vetro, diciamo che è veramente una caduta a terra, cioè c'è proprio la terra che si vede, che si tocca, è proprio toccare il cemento. È un po' questa cosa, soprattutto nell'arrangiamento, poi diciamo che nasce anche cercando di descrivere un attacco d'ansia, che non so se l'avete mai vissuto, ma è un qualcosa di abbastanza pesante. Quindi ci sono dentro un po' queste cose. È un brano molto molto estremo, diciamo che nel disco è quello più estremo. Benissimo, tra le altre cose, ricordando sempre la copertina fatta benissimo in una maniera molto particolare, questo pezzo è il classico pezzo che fa venire la vertigine a dover girare in continuazione il libricino nel l'attacco cercare... d'ansia, così. Sì, sì, l'attacco d'ansia. Viene si continua a girare, come se fosse... E la copertina stessa un disco, mi sto quasi ipnotizzando nel girarlo, e fortunato chi non mi vede. E, bene, allora che dire, abbiamo già rubato un po' di tempo al Rock Wave, l'onda del rock, grazie Alberto, ancora qualche minuto e poi ce ne andiamo. E, allora, noi ringraziamo Nagaila, grazie a voi, ringraziamo Matteo Milesi, grazie, che ci ha dedicato qualche suono di cajon e poi strumentazione varia, percussione. Felice ritorno alla batteria. e poi ancora Fidel Fogaroli, che questa sera ha suonato il piccolo piano di Schroeder, esatto. E che tornerà il suo bel pianoforte quando sarà in concerto e anche per la registrazione del nuovo lavoro. Quindi ancora grazie di essere stati qui. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Mi raccomando, vi strappiamo già un appuntamento. Quando è pronto il disco? Subito vi vogliamo qua, Figurati. Ecco qua. Anzi, già subito, parliamo subito dal prossimo. Sì, benissimo. Allora, abbiamo detto tutto, grazie ancora. E da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso ciao. Blue Time Live può finire qua. Ciao ciao a tutti, buona serata. Ciao, grazie. Radio Veneto. Dai colore alla...